Parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite Simone Piva, chitarrista e voce dei Simone Piva e Viola Velluto. Con voi e con lui ascolteremo 6 brani del CD Ci vuole fegato per vivere, come il primo che è andato in onda. Titolo? Italia Far West. La vostra esperienza durante le registrazioni e quali le linee guida che hanno realizzato questo CD? Ma diciamo, la nostra esperienza per registrare il disco è stata abbastanza sofferente. Ah, cioè, nel senso che vi siete menati? No, menati meno no male, dai. Però voglio dire, noi nel 2009 era uscito il primo demo che si intitolava Trattato postumo di una sbornia. A marzo, inizio gennaio, abbiamo deciso appunto del 2010, quasi 2010, di registrare un nuovo disco. E quindi ci siamo messi subito all'opera, e quindi sono stati quasi un anno abbondante di lavori, ecco. Però direi produttivo, insomma. No, assolutamente produttivo, siamo felicissimi. La prossima canzone per i nostri ascoltatori è Souvenir. In studio ancora con Simone Piva, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in risalto? Niente, le più importanti sicuramente che ci hanno dato soddisfazione adesso sono quelle uscite su Jam e su Rock Hard, che ne parlano molto bene, però senza niente togliere naturalmente alle Webzine. Webzine, dove anche lì sia a Napoli che a Milano che a Roma parlano benissimo del disco, e quello che viene fuori è che questi ragazzi e anche questi giornalisti appunto che recensiscono hanno ascoltato il disco, e ci fa piacere perché viene fuori proprio quello che noi, perché viene fuori proprio quello che noi volevamo dire, cioè questa sofferenza e questa tra virgolette durezza nel vivere in questo momento, ecco, per un ragazzo dove ha le sue difficoltà e problemi di ogni giorno. Prossima canzone si intitola La Moda. E niente, la dedico a tutti gli ascoltatori. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con Simone Piva. Rimanete ancora su Radio RCS.